Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 8 minuti, inizia una nuova puntata di Focus Economia. E allora, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria: tengono le borse dopo i buoni rialzi di ieri, oggi ancora leggermente positive, ma soprattutto continua a tenere e a crescere il livello dell'oro. E infatti non tanto il petrolio in queste giornate, ma l'oro ad aggiornare di record in record. Oggi ha fatto 1044,80 dollari l'oncia. Insomma, ci sono vari elementi e ipotesi su questo oro che va ai record storici. Un dato che non sfugge però a molti osservatori, che è un po' strano, mettiamolo così, vedere borse che continuano a crescere, che comunque hanno recuperato tutti i cali del 2009. Ricordo per inciso che da inizio anno a questo punto sulla maggior parte delle borse siamo con rialzi a Milano del 20%, a Londra del 15%, a New York addirittura del 30% sul Nasdaq e dell'11% sul Dow Jones. E ciò nonostante, vedere un oro che si rafforza. Perché lo dico? Perché da sempre l'oro viene utilizzato come bene rifugio in momenti di turbolenza e di incertezza. Le ipotesi sono addirittura di manovre segrete per sostituire il dollaro come valuta per gli scambi di petrolio, e quindi uno spostamento di flussi di capitale verso l'oro, appunto non fidandosi del ruolo futuro del dollaro. Ma qui, insomma, mi sembra che siamo a livello di perlomeno di congetture, così come l'ipotesi di un paniere diviso. Oggi l'ha avanzata anche un quotidiano britannico, l'Independent, notizia smentita dai paesi produttori di petrolio come Arabia Saudita e Kuwait. Però evidentemente qualcosa sul mercato il mercato crede, e su qualcosa si muove, perché sennò non si giustificano questi record continui. È molto forte l'euro, a 1,47 di nuovo oggi. Per quello che riguarda il rialzo del mercato, è dello 0,15% in questo momento Milano, più 0,1 Parigi e anche Francoforte, meno 0,3 Londra. L'America in questo momento è invariata. Tra i titoli segnalo soprattutto la Popolare di Milano, più 2,9 a 5,3 euro per azione, Pirelli più 2,2, Bulgari più 2,1, Geox più 1,7, Generali più 0,90 come Tenaris e Unipol, e anche Steamicroelectronics 0,80 lo guadagna Parmalat, ma anche UbiBanca e Unicredito. Ansaldo STS più 0,7%. E parleremo di oro, ma anche dell'iniziativa di Bruxelles, ossia procedura di infrazione per i paesi con deficit eccessivo. C'è anche l'Italia, anche qui molti si interrogano sul, per carità, è un atto dovuto per alcuni versi, ma è un atto tra virgolette irrealistico, visto l'andamento delle economie europee nel 2009 e i livelli a cui chiuderanno: meno 5% la Germania e anche l'Italia, meno 2,5% la Francia, meno 4 o 3,8% altri paesi. Per cui il punto sarà capire quanto sia un atto dovuto e quanto invece potrebbe essere un atto anche con conseguenze concrete. Ancora sul fronte economico, dell'economia reale in questo caso, tratteremo di un accordo che è andato a implementarsi oggi tra il gruppo Intesa San Paolo e le imprese lombarde, all'interno di un accordo più esteso su base nazionale. Nella seconda ora del programma, prendendo spunto anche da alcune delle proposte arrivate oggi dal convegno di Italia Futura sulla mobilità sociale, ci sono dati obiettivamente impressionanti, e cioè, ne dico uno su tutti: il numero di giovani tra i 20 e i 40 anni che vivono con i genitori in questi ultimi 20 anni è radicalmente aumentato. In alcune fasce il numero nel caso delle donne, per esempio, è quasi raddoppiato, e questo è oggettivamente un segnale preoccupante, perché tutto si poteva immaginare in questi 20 anni tranne che appunto i giovani tornassero a stare a abitare a casa con i genitori. Certo che poi le condizioni economiche sono la variabile principale di questo. Parleremo quindi di mobilità sociale, di proposte avanzate oggi e anche di passaggio generazionale tra padri e figli nella gestione dell'impresa. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Il petrolio nel frattempo è calato, ma non di tantissimo, è sempre a 70,6 dollari al barile dopo i dati sulle scorte americane di greggio. Ancora, per quello che riguarda invece il, vedo già molti messaggi sul passaggio generazionale, sulla mobilità sociale. Insomma, è la contrazione del reddito tra padre e figlio è in Italia la più forte a livello europeo, e anche la correlazione, cioè se il padre è una persona che guadagna bene, anche il figlio tende a guadagnare bene, e viceversa, se il padre ha un reddito basso, anche il figlio tende ad averlo, il che significa che la mobilità sociale in questo paese è, non dico bloccata, ma ci siamo molto molto vicini. Alcuni dati: 44% degli architetti è figlio di architetti, 42% degli avvocati notai è figlio di avvocati notai, 40% dei farmacisti è figlio dei farmacisti, l'80% dei giovani imprenditori è figlio di imprenditori. Non c'è il dato sui giornalisti, prima che me lo scriviate, ma immagino che purtroppo anche lì la percentuale sia alta. E poi le proposte, ma vi arriviamo alle proposte nella seconda ora del programma. Andiamo avanti con quello, per quello che riguarda invece le altre notizie. Mosca domani verrà firmata una joint venture, quindi un accordo tra la Fiat, che sbarca quindi nuovamente in Russia dopo la famosa, quasi storica fabbrica di Togliattigrad negli anni 60, tramite la sua controllata Case New Holland CNH, che firmerà appunto due accordi con la Kamaz, che è il più grande produttore russo di camion. Sul fronte auto, oggi il ministro Scajola ha detto se l'Europa varerà gli incentivi al settore auto, e quindi se a livello europeo arriverà un ok e un via libera, è evidente che questi incentivi verranno distribuiti anche in Italia. Nel frattempo Chrysler, e quindi il piano Fiat su Chrysler, verrà diffuso il 4 novembre, il piano soprattutto sulla strategia e la strategia dei prodotti. Di incentivi auto ha parlato oggi il presidente della Fiat Montezemolo nel corso di un'intervista a Sky, in cui sono toccati anche i temi del merito della mobilità sociale, visto il ruolo che ha Montezemolo in Italia futura. Ma ascoltiamo questo passaggio sugli incentivi. Prima di tutto va detto che non è denaro alle aziende, ma denaro per favorire i consumi. La Fiat ne trae dei benefici perché oggi ha dei prodotti all'avanguardia, tecnologici, i più bassi consumi, il più basso livello di inquinamento, e ha approfittato di questi incentivi in maniera straordinaria, 60% di più in Germania. Gli incentivi debbono continuare, perché altrimenti questo causerebbe grandi impatti negativi in tutta Europa sull'occupazione. Gli incentivi hanno servito molto anche a modernare il parco, avevamo delle vetture vecchie, inquinanti, questo è meglio per l'ambiente, è meglio per la sicurezza. E infine gli incentivi riguardano tutta la filiera, quindi anche le piccole aziende dell'indotto, dei fornitori, tutta l'area commerciale dei concessionari. Credo e auspichiamo che ci sia una politica europea che continui su questa strada. Vedo già molti messaggi al 349-238-6666 sul tema della mobilità sociale, un po' di pazienza, ne parleremo tra un'ora. Devo confermare però tutto quello che abbiamo appena detto, cioè che è aumentata in maniera radicale il numero e la proporzione di italiani giovani che vivono con i genitori. Insomma, pensate che nel 1981, quindi con un'Italia apparentemente meno moderna e apparentemente meno mobile, la percentuale di italiani che tra i 25 e i 30 anni abitavano con i genitori, per quello che riguarda le donne, era del 20%, siamo passati nel 2006 al 50%, cioè è raddoppiato. Questo vale anche praticamente per il numero di uomini che stanno a casa con i genitori in quell'età, dal 40% degli anni 80 al 67-69% degli anni di adesso, del 2000. E sei, insomma, è un andare indietro a passo di gambero. Se riteniamo che la possibilità per un giovane di uscire di casa significhi emancipazione non solo economica, in primo luogo economica, ma emancipazione anche presa di responsabilità nei confronti della sua vita, qua siamo messi male. però di questi temi ci si occupa poco. Andiamo avanti, comunque andiamo avanti. E ancora sull'economia italiana, nel terzo trimestre Alitalia potrebbe centrare il pareggio dopo aver avuto nei primi tre mesi dell'anno una perdita di 210 milioni, nel secondo trimestre ne ha avuto una perdita di 63 milioni e, secondo quanto affermato oggi dall'amministratore delegato di Alitalia Rocco Sabelli, nel terzo trimestre potrebbe probabilmente arrivare al pareggio. 2 milioni di passeggeri al mese è il livello raggiunto dall'Italia e il tasso di riempimento degli aerei, che è passato dal 43% di gennaio al 73% di adesso. Sabelli ha anche chiuso ogni porta, ogni ipotesi di riapertura di una porta sulla vicenda Malpensa. Ha detto: la nostra strategia su Malpensa è definita ed è chiara, piaccia o non piaccia. Allora, adesso iniziamo col primo tema. Ce ne eravamo un po' dimenticati in questi mesi, di soprattutto da settembre in poi, di rischio panico sui mercati, di crollo delle quotazioni di borsa e conseguentemente anche frenata dell'economia mondiale, chiusura dei rubinetti dell'export. Insomma, tutti andavano a guardare cosa salvare, come fare e generare un cordone di sicurezza sui mercati prima e anche sulle economie dopo. Ci eravamo dimenticati, dicevo, di Bruxelles e dei tetti famosi di Maastricht sul deficit. Secondo quanto prevede l'accordo di Maastricht, infatti, i paesi che aderiscono all'euro non possono superare il deficit all'anno di una cifra superiore al 3% del PIL, dell'economia, di quanto prodotto in un anno. Lo sforamento quest'anno è enorme, cioè nel senso che si fa prima dire chi non sfora di chi sfora, e oggi Bruxelles ha dato il via libera alla procedura per deficit eccessivo di Italia e altri 8 paesi. La Commissione europea infatti ha adottato i rapporti con cui apre le procedure per deficit eccessivo nei confronti di Italia e di altri 8 paesi che nel 2009 sforeranno il 3% del rapporto deficit PIL. E riconosce Bruxelles che la percentuale lo sforamento è dovuto a una situazione di natura eccezionale, in quanto, cito testualmente, sono principalmente questi sforamenti la conseguenza della grave recessione economica e delle sue dimensioni imprevedibili. Però, come dire, non è che di fronte a una situazione eccezionale Bruxelles adotti strumenti eccezionali, va avanti con le sue classiche procedure, e quindi in 9 paesi gli squilibri non sono né prossimi al valore di riferimento del 3% né temporanei, e questa è la parte più delicata. Cioè, dice Bruxelles, attenzione, non è che li sforerete solo per il 2009 e l'anno prossimo tornerete a essere virtuosi, sono sforamenti che non si preannunciano come temporanei. I paesi tra virgolette incriminati sono Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Slovacchia, Slovenia, Olanda e Portogallo, che si aggiungono a altri 11 paesi. Praticamente, questo dicevo, sembra quasi paradossale, su 27 paesi, 20 hanno una procedura per deficit eccessivo, tra cui anche Francia, Spagna e Gran Bretagna. Insomma, praticamente mancano alcuni piccoli, ma poi i grandi ci sono tutti. Per quello che riguarda poi l'Italia, dice Bruxelles, va bene il piano anticrisi, ma la ripresa italiana è prevista molto debole nella seconda metà del 2009 e ci attendiamo che prosegua in maniera molto lenta anche nei mesi successivi. Il pacchetto di misure anticrisi messo in campo dal governo rappresenta comunque un'adeguata risposta alla recessione economica. Ancora la risposta che è arrivata dal Ministero dell'Economia, che ha detto: la situazione italiana per quanto riguarda il deficit non è eccezionale, addirittura uso un'espressione in inglese, deficit as usual, precisando che oltre il 90% del PIL europeo è in deficit eccessivo e rispetto al livello degli altri paesi l'Italia non è tra i più alti. Diversi paesi hanno infatti un deficit sopra il 10%, l'Italia è intorno al 5%, quindi meno della metà di altri paesi. E vediamoli allora questi deficit. L'Italia dovrebbe toccare il 5% del PIL, la Francia l'8,2%, la Germania il 4%, la Spagna il 10,5%, queste sono le stime di Bruxelles, la Gran Bretagna il 14%, il Belgio il 6%, l'Austria il 5,6%. Ora, se prendiamo come riferimento anche paesi che non aderiscono all'Unione Europea, quindi non hanno nessun tetto, però insomma l'America viaggerà al 13,5% del deficit sul PIL, il Giappone al 7,4% per quanto riguarda il rapporto deficit PIL. Per cui è innegabile, numeri alla mano, che l'Italia abbia un deficit sostanzialmente in linea e per alcuni versi anche inferiore della metà rispetto a quello di altri paesi. La domanda di fondo chiaramente è però che cosa, quanto e come l'Italia riuscirà a recuperare il deficit accumulato nel 2009 riducendolo nel 2010, anche perché noi abbiamo rispetto ad altri paesi un debito che viaggia al 120% del PIL, quindi siamo messi in una condizione peggiore rispetto a quella di altri paesi. La procedura di Maastricht impone ai paesi aderenti che se si supera il 3% parte la parte sanzionatoria. Il primo passo è l'invio, noi ci siamo già passati se non ricordo male nel 2003, l'invio di una raccomandazione con l'invito a correggere l'eccesso di deficit, poi una seconda raccomandazione più vincolata e poi ancora, se le indicazioni non vengono rispettate, c'è un'ammenda, nessun paese c'è mai arrivato, un'ammenda fino allo 0,5% del PIL del paese multato. Questo per quello che riguarda le notizie europee. L'altra notizia di mercato invece, come ricordavamo, vedo che molti di voi ne scrivono, è il record dell'oro. Eh sì, 1044,82 dollari l'oncia a Londra, un'oncia, prima che me lo chiediate, vale 28,34 grammi. Da inizio 2009 l'oro è salito di quasi il 20%, il 18%. E un 18% che non è una cosa, diciamo, drammatica. Le borse, ripeto, sono cresciute di più è cresciuta Milano, ma anche Londra. La cosa strana, e la domanda la giro a Sissi Bellomo del Sole 24 Ore. Sissi, buonasera. Buonasera. La cosa strana è che noi da sempre siamo abituati a parlare di oro a record quando ci sono timori fortissimi sull'economia, ricordiamoci a fine 2008 cosa capitò, oppure quando ci sono timori di altro genere sui mercati, non ci si fida, insomma è il classico bene rifugio assieme al mattone. Vedere le borse che crescono così tanto e l'oro che si rafforza ci lascia perplessi, sì. Sì, ci lascia perplessi fino a un certo punto, perché è già un po' di tempo che il ruolo dell'oro è un po' cambiato, ha conservato il suo valore di bene rifugio naturalmente, ma accanto a questo il maggiore interesse da parte degli investitori verso le materie prime, verso l'oro in particolare, che è una materia prima sui generis, è una materia prima ma è anche una valuta, beh insomma, oltre all'interesse come bene rifugio c'è anche un interesse molto forte come protezione dai timori di inflazione, ecco, quindi il legame con quello che sta succedendo oggi sui mercati. I mercati vedono la ripresa, continuano a vederla sempre di più. Ieri c'è stato anche l'Australia che ha alzato i tassi di interesse, è stato il primo paese del G20 a farlo, era oltre un anno che non succedeva questo ha rafforzato moltissimo l'opinione che siamo sulla via della ripresa, ha dato una mazzata al dollaro e come forse sappiamo l'oro e il dollaro hanno un rapporto di correlazione inversa, solitamente quando il dollaro scende l'oro tende a salire e quindi non è poi così strano che in questo periodo l'oro attiri questo tipo di attenzioni, questo tipo di acquisti. E qui entriamo nella io la chiamo fanta economia, non perché non vi creda, ma perché non abbiamo elementi concreti per giudicarla in maniera diversa. Mi riferisco all'ipotesi che oggi ripropone un quotidiano, in questo caso britannico, The Independent, secondo cui, cioè una ipotesi già circolata negli anni e nei mesi passati, cioè sostituire parzialmente il dollaro come moneta di scambio nella merce principale che il dollaro dove il dollaro è moneta di riferimento, ossia il petrolio. Secondo l'Independent, alcuni paesi petroliferi del Golfo, e più la Cina, la Russia, ma anche il Giappone e la Francia, starebbero attuando addirittura manovre segrete per sostituire il dollaro come valuta di scambio nel petrolio. Si punterebbe a utilizzare un paniere di valute che includerebbe lo yen giapponese, l'euro, lo yuan cinese e una nuova divisa unica adottata dai paesi del Golfo, più l'oro. Ora, la notizia è stata smentita da Arabia Saudita e Kuwait, ma esiste, insomma, l'ipotesi che, insomma, l'oro cresca così tanto perché alla fin fine c'è il sentore di un dollaro che potrebbe non diventare più moneta di riferimento a livello mondiale? Sì, queste voci sono stati un altro degli elementi che ha indebolito il dollaro e che quindi ha contribuito a far salire l'oro, senz'altro. Una tentazione molto forte e molto ricorrente tra i paesi produttori di petrolio, quella di scegliere un'altra divisa o un paniere di valute per valutare il petrolio, perché si sa, se il dollaro vale poco, vale meno anche il petrolio che in dollari è quotato, quindi i loro introiti, pur essendo comunque enormi come sappiamo, in realtà valgono un po' meno, il dollaro costa poco e quindi vale meno il loro gettito dalle esportazioni di petrolio. La tentazione è forte, sicuramente ci sono tra i paesi del Golfo Persico, tra i paesi dell'OPEC, dei piani più o meno dietro le quinte per cercare di esplorare questa strada. Sicuramente è ovvio che poi platealmente vengano smentiti, è anche vero che è molto difficile da mettere in pratica, sì, come piano, soprattutto in questo momento. Il petrolio è quotato in dollari ovunque e le quotazioni di riferimento, quelle sulle borse principali, il NYMEX dove è quotato il WTI o l'ICE dove è quotato il Brent, si muovono in dollari. Finché la massa delle contrattazioni sul petrolio, sulle borse dei futures, si svolgerà sulle borse, finché i contratti di fornitura saranno formulati in dollari, questo piano per modificare le cose è destinato a fallire. Nel lungo, lungo periodo può darsi insomma, che qualche cosa. Sì, però mi sembra di capire dalla tua analisi che non credi che l'oro si stia muovendo a questi livelli da record sulla base di ipotesi, ripeto, un po' da fantaeconomia, ma su ipotesi molto, molto più concrete e anche realistiche. E a questo punto ti chiedo quali sono i livelli che gli operatori del mercato prevedono sull'oro, perché abbiamo visto addirittura chi ipotizza una fiammata fino a 1150 dollari l'oncia, poi arrivano queste previsioni che a me fanno sempre un po' sorridere, perché non capisco poi che affidabilità abbiano, di un'escalation dell'oro a 2000 dollari l'oncia nel 2012. Sì, ci sono previsioni molto rialziste da parte di parecchie banche d'affari, di parecchi analisti, previsioni rialziste che sono anche giustificate, almeno in una certa misura, perché finché continua questa tendenza, questo sentiment, vorrei dire, da parte degli investitori, è possibile che l'oro continui ad attrarre effettivamente acquisti. È anche vero che con questi prezzi e con prezzi in prospettiva forse ancora più alti, ci saranno inevitabilmente conseguenze poi sugli acquisti da parte dei fabbricanti di gioielleria, che costituiscono una parte non trascurabile comunque della domanda di oro, soprattutto in alcuni paesi, l'India, la Cina, paesi molto sensibili anche alle quotazioni. Quando sono troppo elevate, gli acquisti subito si riducono e quindi c'è un effetto di reazione sulla domanda. È vero che dall'altra parte c'è la domanda per investimento che ha raggiunto negli anni scorsi e al giorno d'oggi è molto molto importante, è sempre più importante, pesa molto. Ma staremo a vedere se poi quanto continuerà questo trend rialzista, come dicono quelli che ci capiscono. A me lascia così, qualche dubbio lo lascia, perché non vorrei che sotto tutto questo, cioè borse in rialzo del 20% da inizio anno, che non solo hanno recuperato tutti i cali fino a marzo, ma sono andate anche a recuperare tutto. Oro in rialzo, petrolio stabilmente a 70 dollari, mi sembra che ci sia un po' troppa pressione sui mercati, un po' troppa forse liquidità in giro, non vorrei che l'atteggiamento australiano di rialzare i tassi fosse un primo segnale, perché quando i mercati danno questo tipo di elementi in cui si va a portare l'oro ai record senza un motivo, diciamola tutta, così concreto, così impellente, il sospetto che un po' di speculazione stia tornando diventa più che un sospetto. Grazie a Sissi Bellomo. 17:39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso di borsa, come chiedono anche alcuni ascoltatori. Fermo restando che il rapporto oro, petrolio e dollaro è, a mio avviso, in questo momento il termometro di quello che sta capitando sui mercati, ma anche dei rischi di un eccesso di euforia, di bolla, di liquidità sui mercati complessivamente dati. E torneremo a parlarne già la prossima settimana per capire come si stia muovendo questo rapporto. Domani mattina se ne occuperà, su un fronte molto più di consigli per i risparmiatori, Deborah Rosciani con Salvadanaio. Ancora vedo che alcuni di voi non parlate mai dell'agricoltura. Beh, non è vero, abbiamo avuto più volte ospiti il ministro Zaia, i vari presidenti di Confagricoltura, Coldiretti. Di agricoltura parliamo quando ci sono temi di cronaca, chiaramente. Le borse, allora, alla fine non hanno retto la parità con ieri, meno 0,2 Milano, e anche Parigi è peggiorata, meno 0,4, meno 0,3 Francoforte, meno 0,3% anche Londra, perché l'America è andata in terreno negativo in maniera più decisa, meno 0,4% il Dow Jones in questo momento, mentre il Nasdaq si mantiene sulla parità, euro su dollaro a 1,467. Comunque, i titoli migliori restano confermati: Popolare di Milano più 2,91 a 5,3 euro, Pirelli più 1,60, Geox più 1,3, Unipol pure, l'1,2 lo guadagna Bulgari, poi hanno guadagnato lo 0,90 Mediolanum e Parmalat, lo 0,70 ST Microelectronics, lo 0,6 Generali, mezzo punto percentuale Tenaris, Ubibanca e Lottomatica. Chi ha perso di più? Mondadori, meno 1,3, ma viene da una corsa molto forte. Terna, meno 1,1, Mediobanca, meno 1%, Impregilo, meno 0,90, come A2A. Lo 0,80 non ho perso sia Atlantia che Eni, che Campari e il Banco Popolare, ma anche Telecom Italia, Enel e Mediaset. Lo 0,7 è il calo di Exor. Ancora sui titoli, insomma, sembra quasi una vendetta ormai, ma ormai il mercato si sta muovendo solo sui report. Ieri abbiamo dedicato un'intera puntata, o parte della puntata, esprimendo i nostri dubbi sui report delle banche e sull'utilizzo per i risparmiatori. Comunque, Banca Popolare di Milano, Andrea Fontana, Radio Colli sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Su cosa si è mossa? Beh, diciamo che certamente a volte in questa fase, al di là della questione target price o indicazione di acquistare o vendere, alcuni report finiscono per esprimere effettivamente alcune valutazioni industriali che il mercato sta facendo. Una di queste è sulla Popolare di Milano. Emessi Tremonti Bond, il mercato li ha diciamo così digeriti tra virgolette, ma soprattutto ora sta valutando il loro impatto industriale e sta valutando come la Popolare di Milano viaggi un po' a sconto rispetto agli altri titoli del settore. Per questo anche oggi, come già anche ieri, gli investitori sono tornati a ricoprirsi sul titolo e in generale si sta incominciando a prendere posizioni, e questo avverrà in maniera sempre più forte in vista dei conti dei 9 mesi che con l'inizio di novembre verranno comunicati, quindi le posizioni vengono prese prima in vista poi di quello che sarà l'andamento della chiusura dei 9 mesi a settembre. Prismi a meno 0,3, visto che lo chiedete, volete sapere anche di Fiat, ve la diamo, meno 0,1%, altri titoli poco mossi, Telcementi, Snam più 0,2, in assoluto i migliori e peggiori. Seat pagine gialle più 10,2%, Seat Therapeutics meno 12,7%. Possiamo usare i due estremi? Che Seat pagine gialle è un titolo che ormai sembra essere parte di un Luna Park, un otto volante in continuazione. Che è successo oggi? Abbiamo già visto come nei giorni scorsi il titolo sia ormai oggetto di una forte speculazione. Diciamo che in questa fase, in assenza di indicazioni di carattere industriale, il titolo si muove soprattutto su questo. Va detto che sicuramente una maggiore attenzione al comparto media nelle ultime settimane si è visto. Un una maggiore attenzione che i media condividono con l'attenzione che viene rivolta in generale ai ciclici, perché il mercato incomincia a cercare di capire a un anno abbondante dall'inizio di questa crisi quando i ciclici avranno una fase di ripartenza, quindi intercettare la ripartenza dei ciclici anche dal punto di vista speculativo sul mercato potrebbe essere positivo. Questo vale per i media, vale per esempio per il settore più legati al consumo e le vendite al dettaglio. E fronte opposto invece? Cell Therapeutics. Fronte opposto, Cell Therapeutics, meno 12,7%. Non parliamo certamente di un titolo stabile, è un titolo che ha vissuto notevoli vicende di difficoltà e anche oggi viene in una giornata abbastanza ferma, diciamo, per quanto riguarda gli altri titoli. Invece Cell Therapeutics è stata ancora, diciamo così, maltrattata dal mercato, come spesso avviene quando a volte ha notizie negative. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Andrea Fontana, al di là dei migliori e peggiori SEAT Cell Therapeutics, abbiamo visto anche movimenti su altri titoli, e penso a Pirelli. Ora, su Pirelli, qui le ipotesi, anche qua sono ipotesi, ma riguardano un eventuale scorporo. Sì, ormai si stanno facendo abbastanza insistenti da parte del mercato, molti valutano le ultime mosse fatte anche, diciamo, nella ristrutturazione organizzativa del gruppo, con la creazione di una nuova divisione dirigenziale, come appunto mossa propedeutica a quella che sarà la separazione dell'attività immobiliare che è compresa in Pirelli Real Estate da quella che invece l'attività degli pneumatici, e per questo motivo il mercato inizia a valutare diversamente Pirelli, sperando o scommettendo sul fatto che l'immobiliare verrà appunto separato e che la Pirelli quotata invece comprenderà non sarà più una holding, ma comprenderà semplicemente la parte dei pneumatici più valorizzata dal mercato, come Michelin e come altri titoli del sì, comparto. Sì, cioè in questo, paradossalmente, o meglio, questi sono i corsi della strada dell'economia. Quello che prima era un vantaggio, cioè avere una società al proprio interno che avesse anche dei beni immobiliari, che fosse investita sul mattone, adesso diventa una zavorra, è inutile nascondersi. Infatti il mercato premia Pirelli più 1,6%, secondo miglior titolo, proprio sull'ipotesi che possa scorporare, separarsi, non dico liberarsi, ma comunque separarsi in due società, una con dentro il mattone e l'altra con dentro i pneumatici. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori Sole 24 Ore. E noi restiamo in tema di banche, mondo della finanza, ma per tornare su un tema su cui stiamo battendo da mesi e non la smetteremo, ve lo dico: il rapporto banche-imprese. Devo dire che una volta tanto, però, invece che ospitare gli imprenditori che si lamentano o sentire dal mondo delle banche che non è vero che c'è una restrizione di credito, possiamo commentare qualcosa di più operativo. Già nelle settimane scorse abbiamo commentato le iniziative di Unicredito con il settore artigiano e di Banca Intesa con Intesa San Paolo, con il Confcommercio. Oggi, all'interno di un convegno che si è tenuto a Milano, organizzato dall'Asso Lombarda e da Intesa San Paolo, è stato presentato l'accordo firmato proprio tra Asso Lombarda, quindi tra le imprese lombarde di Confindustria e Intesa San Paolo, per garantire l'afflusso di risorse alle imprese. 350 milioni di euro di plafond per interventi su liquidità e patrimonializzazione, con queste linee guida che ha ricordato il presidente della piccola industria di Confindustria, Giuseppe Morandini. Banche, se la strada giusta per uscire da questa crisi fosse sparare sulle banche, io credo che saremmo in pieno boom economico. Perché ne abbiamo dette di tutto e di più. Abbiamo riempito le pagine dei giornali, poi però chi aspetta il credito non arriva. Il problema non lo risolvi così. Il problema lo risolvi con quello che stiamo facendo oggi, con quello che abbiamo fatto sul territorio, perché una delle cose che siamo riusciti a fare da quell'accordo che abbiamo firmato a luglio è quello di ritornare sul territorio banca e impresa assieme. Qui oggi l'imprenditore ha la possibilità di confrontarsi con la banca e davanti a tutti capire quali sono i problemi e creare le condizioni, io non dico per risolvere il singolo problema, ma quantomeno ci sono le condizioni per un confronto sul problema, per una messa a conoscenza diretta dall'imprenditore alla banca di quali sono le priorità che noi dobbiamo affrontare quotidianamente per rimanere in piedi, perché la salvezza è rimanere in piedi. Il grande successo della piccola impresa in questi prossimi mesi è rimanere in piedi. E allora gli strumenti che firmiamo oggi hanno un pregio assoluto, sono strumenti che partono dal basso. Dove nasce questo accordo qui? Nasce dal fatto che Corrado Passera il 13 marzo di quest'anno, che era un venerdì, sale sul palco di Palermo dove si teneva il convegno biennale di piccola industria, si siede senza rispondere alle domande dell'intervistatore, fa una cosa semplicissima, dà il suo indirizzo mail. Piccola industria, se avete qualcosa da dire, eccomi qua. Giro di mezz'ora, la casella postale era piena, lui prende la casella postale, la passa ai suoi uomini e dalla selezione di quelle indicazioni sono venute fuori i 3-4 strumenti che oggi vengono messi a disposizione della piccola impresa. È un modo per andare a dire la banca c'è. Così Giuseppe Morandini, appunto presidente della piccola industria di Confindustria, che è tornato anche sull'ipotesi, la proposta lanciata 2 giorni fa da Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, ossia se molte banche, come è successo, non hanno avuto bisogno dei Tremonti Bond, delle obbligazioni offerte dal Tesoro per aumentare la patrimonializzazione, in tutto erano 10 miliardi più o meno, a spanne, se vado a memoria, ma almeno 8 resteranno più o meno inutilizzati, qualcosa di meno forse. Comunque, la proposta è stata bene, giratevi comunque al mondo delle imprese attraverso altri fondi, fondi di garanzia, confidi, quant'altro. C'è tornato sulla proposta anche Morandini, che ha detto insomma se le banche non ne hanno bisogno facciamo in modo che arrivino comunque al sistema produttivo. Si parla tanto di T-Bond, allora se, e sottolineo se, ci sono ancora nelle disponibilità dello Stato i soldi del T-Bond, se ci sono quei soldi, una cosa intelligente da fare è girarli al fondo di garanzia. È l'unico modo. Se io metto un euro, posso richiamare da 10 in più euro di volume di investimento, di liquidità, di disponibilità che possa andare all'interno delle piccole imprese. Magari, se c'è disponibilità liquida nel fondo, facendo lavorare in alcuni casi il fondo di garanzia con percentuali anche superiori al 50%. Eh sì, perché il fondo di garanzia esiste, ha un plafond di 1,5 miliardi, se non ricordo male, anche su iniziativa del governo, però appunto essendo soldi di garanzia statale, lo abbiamo spiegato più volte, hanno una qualità molto alta, perché è impossibile che lo Stato non, che l'emittente di queste obbligazioni possa fallire, e quindi permettono poi di essere impiegati su una leva di 10 e 15. Comunque, tornando al rapporto banca-impresa, sentiamo anche l'altro lato di questo accordo, ossia Intesa San Paolo, per voce del suo amministratore delegato Corrado Passera. C'è da parte nostra quella capacità anche di strutturare operazioni che necessitano di competenze che soltanto a livello nazionale o internazionale si può avere. C'è la voglia, nel nostro caso, anche di mettere capitale quando necessario. L'abbiamo fatto per un centinaio di casi, non è ovvio, e deve essere una cosa ovviamente provvisoria, deve essere una cosa in cui si rendono possibili progetti o passaggi generazionali o grandi operazioni e non basta il credito. Naturalmente poi la banca deve ritirarsi indietro appena possibile, perché non è nostro compito ovviamente, però in certi casi soltanto così si superano certi problemi. In questo senso io credo che se confronto quello che vorremmo, cerchiamo di essere come banca, e quello che ho sempre avuto un po' come controparte, non come banca dall'altra parte del tavolo, io credo che molte banche italiane stanno facendo abbastanza uno sforzo per migliorare. Non basta il credito per rimettere in moto l'economia. E il problema è quello, è rimettere in moto gli ordini, la crescita, la malattia è la recessione, e il credito solo in parte è una cura a questo, può servire in taluni casi per arrivare dall'altra parte, e bisogna fare attenzione nella selezione a non mai punire o non mai svantaggiare coloro che hanno tutti i numeri per essere poi forti al di là del guado, però il credito può fare solo certe cose. Così qualcosa si muove, 350 milioni di euro di plafond per le imprese lombarde, qualcosa invece non si muove nella mobilità sociale del paese, anzi peggiora, l'ascensore è bloccato tra figli e padri, ma è addirittura un ascensore che va verso il basso, non va verso l'alto. Non vorrei essere troppo pessimista, ma i dati parlano chiaro e noi li affronteremo dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms. Visto che di famiglia si parla sempre in maniera molto ideologica, sappiate che solo la Polonia spende meno di noi per le politiche a favore della famiglia, quella vera.